Gaga. Them broken bones. These broken bones. These lives were told. Long winding roads never leading me home. Cavernous empty shell at the bottom I dwell. No, I don't need no messiah. No one can appease my soul. Cause I got them broken bones. These broken bones. These lies were told. Long winding roads never leading me home. These broken bones. Allora, benvenuti Radio Default Disability. Buonasera, ciao Michele, ben trovato, bentornato. Ciao Emiliano, benvenuti a Radio Default. Vabbè, Michele, allora, abbiamo oggi un giorno insolito, no? Sì, mi scuso con i radioascoltatori di... Emiliano, scusa, io non mi sento in cuffia. Vai tranquillo che noi ti sentiamo forte e claro. Ah, ok, scusate, sì, adesso mi sento. Allora, ti sento, no? Vai, vai, vai. Allora, io la scorsa volta non sono potuto venire perché avevo un appuntamento al centro neurologico di Roma, a Policlinico. Com'è andata, amica? Tutto bene, benino, no? Sì, sì, benino. Adesso c'ho un appuntamento il 2 luglio e praticamente mi abbasserà i medicinali. Ah, buone nuove finalmente. Finalmente, sì. Ottimo, ottimo, amica. Bene. Quindi facciamo progressi. Sì, sì, mi abbasserà i medicinali e... Vai tranquillo, vai, Michele, se vuoi ti tolgo le cuffie, ti danno fastidio. No, no, no, no, stavo comunicando a Emiliano che non mi sentivo in cuffia. E praticamente, sì, mi sento. Perché ci parli sopra, Michele, vai tranquillo, vai, vai, vai. Ok. Oggi chiaramente è una puntata tutta un po' particolare perché... No, perché praticamente... Ricordiamolo che noi stiamo in onda il secondo e il quarto mercoledì sì, del mese. Sì, perché io domani dovrò fare un intervento privato... In parti intime, Michele. Parti intime che praticamente mi è stato messo domani e per cui sarò convalescente domani... E non, probabilmente anche sotto antibiotico, per cui non potrò venire. Bene, bene, bene, bene, bene. Vabbè, ma tanto Michele ormai ci sei abituato poi a grandi recuperi, grandi cose. M'hanno detto speriamo che recupero velocemente sto giro. Ma sto giro andrei la bomba, perché da quanto mi dicono, poi guarda, ci abbiamo noi uno dei nostri DJs che è molto bravo in merito proprio a quella tipologia di interventi che devi fare te. Che fortuna! Potevi, se ieri fossi venuto probabilmente avevi già risolto la situazione. Comunque mi ha detto che è una cosa molto facile, ambulatoriale, no, beh, in 5 minuti ti fanno un taglietto, stac, e tutto a posto. Che poi. Fortuna, guarda! Vabbè. Vabbè. Vabbè. Dai. Vabbè. Allora, oggi l'argomento che ci dici oggi? È la famiglia, cioè come viene affrontata. Poi dovremmo porre a parlare di questo concetto di famiglia, mica. Vabbè, vai, vai, vai. La disabilità nel mondo nel mondo familiare, perché alcuni genitori non accettano il concetto di avere un figlio disabile, e alcuni che sono un po' più cattolici, io adesso non voglio mettere in... Mettiamo un po' di carne al fuoco, Michele. Io adesso non voglio mettere in ballo la religione, ma quelli un po' più cattolici accettano la disabilità del figlio. Io ho conosciuto... Parliamone, eh? Sì, sì, sì, sì. Perché rifiutare un figlio, secondo me, solo per il fatto che è disabile è un doppio crimine. Perché un bambino disabile alla famiglia la fa crescere moltissimo, e l'abbiamo l'abbiamo visto nei film che vi sono stati esposti, tipo L'Olio di Lorenzo, tipo L'Olio di Lorenzo, in cui questi genitori salvano il figlio e si dannano per lui, oppure c'è il rapporto conflittuale fra genitori e figli che abbiamo visto nel Grande Cocomero, oppure c'è il grande rapporto di amore fra il mitico Forrest Gump e sua mamma. Grande. E cosa ne pensi tu, Emiliano? Ma io non è che sto tanto d'accordo con te, mica. Cioè, io quello che credo è che non possiamo, secondo me, semplificare il discorso dicendo che chi è di estrazione cattolica o credente, quello che è, ha un maggior rispetto per le situazioni di disagio sociale, no? Anzi, io credo che per certi versi si rischia pure di fare un po' il contrario, no? Perché io credo che la religione cattolica c'ha un grande attenzione, no? Nel ciclo della vita, per sulla quando l'essere umano nasce e quando l'essere umano muore. Però non c'ha molta attenzione alla religione cattolica, diciamo, nel mentre. Cioè, dopo che l'essere umano nasce e prima che muore, c'è un mentre abbastanza... Sì, che è la vita. Ah, no, che è la vita, no? Poi quando certo. Si parla di quale rispetto, no? Poi capiamoci un attimo che vuol dire rispetto della vita, no? Perché rispetto della vita non è, diciamo, la libera scelta che una donna, no? Può avere rispetto a esso non essere madre, no? Io credo che quella è una grande scelta di vita, no? Certamente, credo, no? Certamente. Dopodiché, che quando ci stanno delle situazioni di disagio, come dici te, psichico, mentale, fisico, quello che è, io credo che non è proprio così facile, no? Ma a parte che io ti ho espresso chiaramente un punto di vista, certo, mio, certo, no? Personale. Certo. Questo premettiamolo, no? Noi siamo aperti a tutte le punti di vista e quindi siamo per il confronto. Però quello che ti dico è, appunto, evitiamo di dare delle schematizzazioni, secondo me, perché forse non è detto che chi è cattolico ha una maggiore attenzione per il figlio disabile. Io ho conosciuto tanti altri casi, no? Quindi non conosco gente di altre religioni, tranne gli atei. Ecco. Poi ci stanno pure altre questioni. Però ecco, andiamo a toccare, secondo me, diciamo, una sensibilità, no? Di natura personale. Che poi, al di là di quello, io credo che poi le questioni che invece te vuoi giustamente porre oggi, no? E che stavi già accennando. Cioè, cosa oggi, che condizioni trova, no? Una famiglia, due persone che si vogliono bene, se magari hanno, no, un figlio disabile o adottano un figlio disabile. Certo, io conosco certamente anche casi di questo tipo. Certamente. Quanto, no? Noi tra l'altro parliamo sempre poi di opportunità, di vere e pari opportunità, anche per chi, no? Certamente. Ha in qualche maniera avuto meno fortuna di noi, no? Che poi pure quello è sempre un punto di vista. Però ecco, diciamo, partendo da quello. Sì, sì. No? Quindi non lo so, mica, questo è un po' quello che io penso. È una tematica molto profonda. Molto, sì, quello è vero, quello è vero. Molto profonda, perché è una tematica, tu hai parlato dell'adozione, perché uno può adottare un bambino, fra virgolette, sempre normodotato, oppure adottare un bambino con disabilità. Però è dura. È dura. Poi ecco, noi abbiamo Giovanni, che è un nostro amico della radio, che fa l'insegnante di sostegno. Quando ero insegnante di sostegno, no, quando ero insegnante di sostegno, io, scusate, fatto anche l'insegnante di sostegno. No, mi perdonatemi questo lapsus, questa gaffa. E quando avevo io il sostegno erano ben 16 ore, adesso per averne anche 6 i genitori devono fare carte false, cioè rispetto a 20 anni fa. Io credo che il grado di civiltà si misuri molto di più su questi aspetti, su queste questioni, che non invece su principi di presunta moralità, no? Certo. Io credo che sia molto più concreto. Allora, oggi in teoria chi è l'ente, il primo ente a cui uno si deve rivolgere, no, Michele? Che tipo di servizi, no? Qua ci abbiamo avuto i comuni, le province, le regioni, no? Ma quali sono le competenze? Qual è l'ente che, per esempio, a te, no? Prima parlavi della scuola, no? Quello sicuramente è il primo ente istituzionale, come si usa a dire, con cui uno entra in contatto, no? Nella sua fase di vita e di crescita. Allora, no? Dipende dal tipo di disabilità. Oh, bene. Se è una disabilità che si scopre alla nascita, si va dal pediatra e si viene indirizzati nei cosiddetti centri che a Genzano c'è, i Uompi adesso, quando ero piccolo io si chiamava UTR. Uompi, che è? Uompi è sempre un acronimo, non mi dire che significa, ah, vabbè, perché okay, non me lo ricordo. Allora, UTR invece era unità riabilitativa locale, erano gli UTR del territorio, in cui il bambino faceva praticamente recupero linguistico e psicomotorio e via dicendo. Di solito, quando c'ero io, c'era una neuropsichiatra, una psicologa, una riabilitatrice del movimento, una logopedista, insomma, quindi un pezzo del sistema sanitario nazionale, sistema sanitario, e un assistente sociale pubblico, chiaramente. Pubblico, viva il pubblico, no? Sì, sì, sì, che praticamente segue i casi che stanno in quell'ambito. Certo. E se no, se è una... crescendo, per esempio, sulla parte educativa. Sulla parte educativa c'è la scuola con gli insegnanti di sostegno. Che io sapevo che una volta alcuni erano poi quelli poi sono gli educatori. Perché gli educatori, poi è un'altra cosa ancora. Io so, io non so qual è la differenza, perché esatto, io non l'ho avuto. Magari dopo chiediamo pure a Giova se vuole venire un attimo, gli diamo un po' la differenza. Sì, e lui. Anche quello che vabbè, poi dopo glielo diciamo, così okay, magari lui ci aiuta su questo aspetto, okay, no? Educatore. Educatore e l'insegnante di sostegno invece, non è il sistema sanitario nazionale, no, bensì provveditorato, quindi Ministero della Pubblica Istruzione. Per avere l'insegnante del sostegno devi andare a farti fare una carta dal vecchio UTR, dal nuovo UOMPI praticamente, che dice che il bambino ha questi deficit, allora, certo, che ha bisogno di tot ore di sostegno, quindi che il sostegno che è formato quindi da esperti, psicologi. No, il sostegno è. No, il sostegno è l'insegnante, no? Chi è che stabilisce i criteri per poi dare le GLH, ore? Si fa il cosiddetto GLH. Che quello però si fa dentro le scuole, giusto? Sì, che okay, però è fatto da gente dell'UOMPI. Ok. ASL, quindi dell'ASL, perfetto, ok, che quindi sempre si sistema unisce, sanitario, si uniscono scuola e ASL e dicono: guarda, questo bambino ha queste difficoltà e per cui gli vanno date 8 ore di sostegno. Certo. In alcuni casi si può anche richiedere l'assistente a casa. Ah. Nei casi di un po' più gravi, di bambini che non parlano, che non si muovono o che hanno insomma delle difficoltà particolari, c'è l'assistente a casa, che è però un'altra figura. Allora, poi si può richiedere dall'età scolare la pensione di invalidità già, però la pensione di invalidità in età scolare rimborsa praticamente i libri di testo. Praticamente soltanto quelli. Soltanto quelli, mi sembra. Adesso chiediamo a Giova se perché io ti sto, guarda, ti sto parlando a memoria mia, per cui non so se poi negli anni le poi cose chiameremo sono... il nostro consulente di riferimento, così magari l'Inps ti manda una cifra che tu puoi usare per i libri di testo e per gli assistenti, diciamo, extrascolastici. Ho capito. E via dicendo. Se vuoi mandiamo un pezzo musicale, così intanto chiamiamo Giovanni. Ma io, però prima te volevo chiedere un'altra cose. Io, insomma, Michele, non lo so, mandiamo un pezzo musicale comunque, però poi ti torno a richiamare le cose. Okay. Dai. But I'm coming home to you, my dear. Let the north wind blow, blow me off my feet. And the snow comes down, oh yeah, the snow comes down, makes it all too warm. And a mountain's high, oh so high, and a river's deep. But I'm coming home, yeah, I'm coming home, my sweet Mary Jane, to that old oak tree. Where I come to, to those old fir pines, where I do sleep. I'm a mountain man on this old frontier, but I'm coming home, yeah, I'm coming home to you, my dear. I'm railroad new, and through this forest I go. I'm always heading east. Keep the porch light on, keep the wolves at bay. Che te ne pare, Michele? Ottima, bellissima, bellissima, bellissima traccia. Grande, lui è Tim Hall House, viene da Southampton, l'abbiamo conosciuto il 25 aprile. Ostia, mi stavi dicendo. Sì, questo fantastico festival organizzato da Gypsy Rufina, che salutiamo. C'erano una serie di artisti. Gypsy Rufina. No, Giffy, Gypsy Rufina. Gypsy come Gypsy Rufina. Ma quello famoso. Grande, esatto, quello che, quel pischello di Arieti, sì sì, che hai sentito pure qui. Ha fatto per i suoi 40 anni, ha rinvitato tutti i suoi amici in giro per il mondo, gente che suona per strada, chitarra, bluesman, armoniche. Sarà una bellissima giornata, una bella giornata per ricordare, no? Pure un anniversario importante. 25 chiaramente tutta musica autoprodotta, questa è tutta roba fatta da loro, la liberazione, te che hai fatto per la liberazione, a proposito, Michele, poi ti dopo ritorniamo, scusa la digressione, no? Però il 25 aprile. Che era Pasquetta pure? Era liberazione. 25 aprile si festeggia perché la tu confondi la Pasqua con la liberazione. Scusa, che sono state talmente vicine. Che a Pasquetta sono stato a Magnaggio all'orto. Magni poco. Sono stato a Magnaco dei bellissimi compagni della mia cooperativa. Grande. Le loro ragazze mi sono rifatto gli occhi. Vabbè, mo questi altri aspetti più pecorecci evitiamoli. Invece il 25 aprile si festeggiava la liberazione del nazifascismo. I viva i partigiani, come si dice, no? Che hai fatto del bello, mica? Mi sono rilassato. Hai fatto bene, dai. La prossima volta, magari, ecco. Comunque, te che non ci sei potuto stare, comunque qua abbiamo una serie di registrazioni, c'è pure Max Forestieri, altri, quindi poi magari te li passiamo. Senti, Michele, no, torniamo un po' all'argomento del giorno, mo ci siamo un po' persi, però. Io, per esempio, la cosa che mi chiedevo, no? Quindi hai già spiegato... No, non è accaduto nulla. Vai così. Ok. Per quanto riguarda una serie, no, di servizi, che come le voglio dire, quindi mi ha detto l'assistenza domiciliare, grosso modo è la ASL. No, invece sì, il pulmino, lo scuolabus, per esempio, no? O la possibilità anche, no, di avere un servizio navetta per andare ad esempio al lavoro, non saprei, no? Sì. Ecco, quest'altro tipo di servizi, no? O le stesse borse lavoro. Sì. A chi dobbiamo rivolgerci, no? O anche il ruolo, tu mi hai parlato pure dell'assistente sociale, che se non sbaglio è una figura che è coordinata dai comuni. Sì. Sì. Oppure dai livelli provinciali, no? Sì. Quindi a chi uno si deve rivolgere per il servizio navetta, allora, o i borse lavoro? Allora, ai comuni di residenza. Allora, per i bus navetta per andare a scuola, in caso di bus di ragazzo disabile, dovrebbero il condizionale proprio d'obbligo, perché dovrebbero praticamente essere attrezzati con la piattaforma, cosa che quasi mai succede in Italia. Nada. Vai, Miguel. Che non succede quasi mai in Italia. Per le borse lavoro invece è un aiuto che il comune dà al ragazzo per un inserimento nel mondo lavorativo, che teoricamente dovrebbe essere a tempo, però può essere rinnovato. Te, mica hai fatto borsa lavoro, quindi? Eh sì, io sto ancora sotto borsa lavoro. Dai, è così. Quanti anni è ormai che stai sotto borsa lavoro? Saranno 8 anni. Ma, perché praticamente mi inserì la mia carissima assistente sociale, che non c'è più. Mi inserì in un supermercato di cui non facciamo il nome, e poi neanche il cognome del supermercato. Che battutona. Poi abbiamo aperto questa cooperativa di ragazzi disabili con il mio gruppo di amici, virgola scout, virgola tognolo, perché non facciamo però pubblicità, però per favore. Non c'entra nulla la tognolo. Vabbè, te e i tuoi amici, ecco, te e i tuoi amici. Io e i miei amici. Non possiamo fare pubblicità. No, però non c'entra nulla la banca. Aie. Non c'entra la banca, è perché noi ci occupiamo di pulizia scala, volantinaggio e pulizia in genere. Bene, quindi facciamo un po' di pubblicità alla cooperativa di Michele. Coop Primavera. Oh, ottimo, ottimo. Adesso stiamo facendo. Sede legale a? Stiamo Danisciante, no? No. Stiamo sull'Appia, davanti alla banca di Sondrio. Altre pubblicità occulte, scusatelo. Lo so, però per dire più o meno dove siamo, un po' dove siamo, le coordinate. È una cooperativa, ecco, stiamo aprendo pure un orto sociale. Sempre a Genzano? Sì, no, Giannemi è un orto che era dei frati. Dai. Noi lo stiamo ripulendo. Beh, tanti frati che ce l'avevano fatto, no, mica? Meglio ce l'avete voi. Sì, ci stiamo ottimo lavorando piano piano e speriamo di coltivare dell'ottima frutta e verdura. E non solo. Un ettaro stiamo lavorando, stiamo buttando Nostro Signore con tutta la sua croce, perché c'era tutta l'immondizia e via dicendo. Bene, Michele, ottimo. E senti un po', Michele, mo tu fai quindi la borsa lavoro, fai un sacco di cose, ma alla fine la previdenza sociale, no? Immagino che ci avrei pure una piccola pensioncina, chiaramente. L'INPS, sì. Perché all'INPS, quindi? Ah, l'INPS... Però pure borse lavoro, no? Te come... cioè la tua pensione d'anzianità, cioè i tuoi contributi, che visto che lavori... La borsa lavoro non dà contributi. Tecnicamente, dal punto di vista lavorativo, è come se lavorassi nero. Bene. Stiamo in Italia, sembra assurdo, però tecnicamente è come se lavorassi nero. Che non... Quindi non c'hai contributo, è un sostegno al reddito. Li chiamano sostegno al reddito, certo. E quindi sì, però te che lavori, no? Adesso pure con la cooperativa svolgi le mansioni del lavoro, no? Sì. Comunque come funziona la previdenza sociale, no? Riferita a chi lavora, no? Tanti ragazzi e ragazze che lavorano, no? Cioè loro sì. Oltre a percepire una pensione, presumo che accumuleranno pure avere, cioè di non superare i 15.000 euro annui, perché sennò la pensione dell'INPS ti viene tolta. Bene, io fra mia pensione e borsa lavoro e affitto di Sinistra Critica, di cui Biblioteca Popolare, eh? Biblioteca Popolare, basta pubblicità, di Biblioteca Popolare di cui tu fai parte, io non supero i 15.000. Se si supera, se si superasse, se si superasse anche solo euro, fammi capire, quindi, cioè, quindi è un cane che si morde la coda. Però se uno ci avesse un figlio, una figlia, è un semplice dipendente, quindi supera i 15.000 euro annui, ti tolgono la pensione di invalidità. Tutto a carico, quindi? La famiglia, dei genitori, la buona volontà personale. Sì, sì. Nonni, zii. Poi vabbè, se parla sia con i datori di lavoro sia con il comune, si cerca sempre di non toglierla, cioè di non toglierla grazie di invalidità. E invece la pensione quella classica quando ve scatta, cioè quando ti scatterebbe a te, c'hai più anni da lavorare rispetto a normo dotato o meno? A parte poi penso di no, penso che pure a me mi scatterà 65 anni. Dai, Fornero. Fornero pure tu, quindi, sì. Biscottato. Vabbè, mica, ma stiamo tutti sulla stessa barca. Fate forza e coraggio, no? Okay. Senti, mandiamo un altro pezzo musicale, sempre. Okay. Guarda, te volevo far sentire sempre da Ostia, da questo Outlaw Festival in piena anteprima. Facciolo ci ammazza oggi che gli stiamo a mandare in anteprima le registrazioni della Gypsy Rufinata, come molti di noi dicono. Ok. Vabbè, mo Facioletto magari si è distratto un attimo, non ci sente. Noi mandiamo un piccolo estratto. Bravo Michele, mi togli sempre le parole di bocca, come si può dire. Un estratto di Max Forestieri, un personaggio un po' particolare, lui molto, molto ansioso. Io l'ho conosciuto, è un ragazzo molto ansioso, porta i calzini rossi a quadri bianco-rossi, un po' particolare, diciamo. Lui era preoccupato perché diceva che la sua registrazione, la sua performance non era stata soddisfacente. Quindi io te la faccio ascoltare e buon ascolto. Sentiamo, e poi mi dirà. Sentiamo. And now the two song, the second song. Thank you. like I can't work it out. Yes, I'm sure. Yeah, here's this kind of love. Difficult to get a love from you, but I first all about the right key. He's not his this kind of role. Yes, I'm trying. Oh Lord, if I'm trying. Allora. Vabbè, come è parso Max Forestieri? Bellissimo, bellissimo verso. Vabbè, allora siamo venuti che è arrivato Giova, quindi ci aiuta su ste domande, Michele, che dovevamo fargli, no? Sì, allora, quindi allora, tu com'era? Educatori e GLH. Allora, esistono ancora il concetto del GLH, li fate in quali... per quali tipi di disabilità? GLH avevi detto già c'è però prima dovevi, no, com'è? Allora, ciao a tutti. Sì, allora, diciamo, il GLH è previsto dalla normativa specifica, anche rispetto alla legge 104. Sì. Automaticamente un soggetto con 104 ha diritto durante il corso dell'anno a due GLH, il GLH all'inizio dell'anno, di cui adesso non ricordo bene il nome, è quello funzionale, che è quello che si fa a fine anno, che è funzionale alla continuità dell'anno successivo, alla riformulazione degli obiettivi dell'alunno, eccetera eccetera eccetera. E sulla carta fondamentalmente non è cambiato niente, immagino, dagli anni 70 ad oggi. La maggior parte della legislazione scolastica sul sostegno deriva dagli anni 70 e è la più all'avanguardia oggi rispetto a quella di tutta Europa, immaginiamoci negli anni 70, cioè diciamo l'Italia stava avanti sulla carta, sulla legislazione, la prima nazione a prevedere l'insegnante di sostegno, la prima a non aver mai parlato di classi separate, tranne ecco, qualche showman negli ultimi anni, però non si è mai parlato di classi separate, mentre invece in altri paesi come l'Inghilterra le classi separate sono state utilizzate, eccetera. Ah, questa cosa non la sapevo. E invece insomma l'Italia è sempre stata molto avanti nella normativa sul sostegno, e il GLH è sempre stato previsto, sia quello di inizio anno e quello di fine anno. Il GLH è, diciamo, una riunione Group Operative Logistic, dovrebbe essere. Sì, diciamo, è il luogo che, tra l'altro, io, ecco, con la mia piccola esperienza di due anni nella scuola pubblica, penso che servirebbe un GLH al mese, perché la funzione GLH è fondamentale, è il mettere in relazione i mondi che girano intorno al ragazzo o ragazza, cioè il mondo della la neuropsichiatria, il mondo della scuola, il mondo della famiglia, il mondo della terapia, nel caso ci fosse, quindi se c'è terapia privata, cioè se un ragazzo fa una terapia privata sono invitati per legge anche i terapisti privati, e quindi è un luogo importantissimo dove si relaziona quello che avviene a scuola, quello che avviene a casa, dove si fanno progetti, eccetera eccetera. Purtroppo io quando facevo il corso, cioè il GLH appunto ci veniva presentato come una cosa fondamentale e che comunque fosse sempre sempre, diciamo, organizzato. Invece purtroppo nella pratica la psicologa, che magari è una, poi per motivi proprio, non è che la psicologa non vuole partecipare ai GLH ad esempio di tutta la scuola, però magari la psicologa è una, quella del comune, perché per legge diciamo sono devono essere chiamati psicologi del comune, neuropsichiatri del comune, eccetera, e magari occupata. No, magari sì, decide fa 3 GLH, magari quello delle persone più gravi, o se no una volta vada quello, una volta vada quell'altro, ecco, non c'è continuità. Poi gli insegnanti di solito, insomma, insegnanti di non tutte le scuole. Ecco una cosa, per esempio, che mi è capitata quest'anno, sono stato piacevolmente sorpreso alle superiori, perché io alle medie sinceramente il GLH coinvolgeva il docente di sostegno e il docente di un docente. Basta che c'è un docente, che può essere quello di matematica, fondamentalmente è quello che c'ha tempo in quell'ora. Invece alle superiori, nota di merito, tutto il consiglio di classe, tutti gli insegnanti partecipano alla GLH. Cosa, cioè, fondamentale, perché, cioè, comunque per alcuni docenti il disabile non esiste in classe, purtroppo. E invece il GLH, appunto, con tutti i docenti, psichiatri, eccetera, famiglia, dovrebbe essere un momento in cui anche la famiglia prende fiducia, perché molte volte le famiglie te trovi comunque persone un po' sfiduciate, eccetera. Il momento dove prende, cioè, è una cosa importantissima. E comunque è una cosa che, come altre cose, sta subendo un po' di calo di importanza, diciamo, all'interno della scuola. Credo, sì. Insomma, credo. Sì. Non c'ha la giusta rilevanza, è un po' d'assenteismo. Non tanto di chi fa parte della scuola, perché comunque la riunione avviene a scuola col docente di sostegno, almeno per forza, però magari da parte soprattutto da parte delle ASL, che io sappia, all'interno del GLH, perché la famiglia comunque c'è quasi sempre, i docenti pure, e la terapia privata, se non viene, è già pure un altro discorso, voglio dire, magari si relazionerà con la famiglia, eccetera. Ma che la ASL, cioè che i medici, che i psichiatri e i psicologi, la psicologa, cioè ad esempio quello che seguo io, c'è la necessità della psicologa che deve accompagnare la bambina nella crescita, cioè manca quello, è pesante, cioè l'assenteismo più grave è quello dell'ASL, secondo me, al GLA. Senti, invece stavamo parlando con Emiliano prima del fatto della pensione dell'INPS e da quanto mi ricordo io, da quando andavo a scuola, praticamente la pensione, se viene data in età scolare, viene usata per il rimborso libri e per eventuali assistenti extrascolastici, cioè il bambino, il ragazzo deve essere portato alla terapia da un assistente privato che va pagato tramite la pensione. Rimane ancora così? Sì, che io sappia, i soldi che, per esempio, vabbè, no, ovviamente non posso riportare esempi specifici, no. Però capita molto spesso che ad esempio anche per quanto riguarda progetti educativi, ad esempio, cioè ricordiamoci che molto spesso nei casi gravi sono proprio i progetti che fanno la differenza, non tanto la vita scolastica standard in aula. Cioè, allora un progetto ad esempio di piscina per determinate patologie, eccetera, è una cosa fondamentale, ok? Che invece a volte dalle istituzioni viene visto come magari un lusso e quindi che va attribuito a costo della famiglia, quando invece è comunque l'ente pubblico che si dovrebbe caricare anche in questo caso, quando, come si dice, quando la didattica coincide con l'autonomia personale, il raggiungere l'autonomia personale, la relazione, la BC, eccetera. In quel caso sono i progetti che diventano fondamentali. E purtroppo nei progetti la scuola, che insomma anche il mio vissuto, viene lasciata un po' tra virgolette sola dal sempre il mondo, diciamo, sanitario, in cui purtroppo, ripeto, forte assenteismo e che io sappia, cioè alunni che più anni premono famiglia più scuola per avere un determinato servizio, come può essere, che ne so, il pulmino per andare a scuola, che è fondamentale e per la famiglia è fondamentale. A volte è una delle prime cose che viene levato, è il servizio del pulmino per i disabili, e quindi è la famiglia che si carica costo e tempo soprattutto da accompagnare, eccetera. Quindi, cioè, non lo so, ecco, per voler fare un rapporto tra tu parlavi di pensioni INPS praticamente, sì, sì, magari sì. Io non le specifico il discorso della pensione INPS, non so, cioè posso parlare del rapporto che c'è tra quello che l'istituzione dovrebbe dare in caso, no? A livello di soldi, pensioni, eccetera, dovrebbe calcolare diverse cose, diversi indici che non vengono mai calcolati. Io ho parlato del fatto che la pensione INPS nell'età scolare dovrebbe essere finalizzata per il rimborso libri e per eventuali assistenti privati. Questo ha detto in questa trasmissione. Ah. Io sulla pensione. Certo, completamente d'accordo. Volevo aggiungere una nota: il GLH è anche il luogo dove gli assistenti specializzati hanno, è l'unico posto perché purtroppo il consiglio di classe non è aperto agli assistenti specializzati, che ahimè a volte sono più preparati dei docenti, e quindi dovrebbe essere apertissimo il consiglio di classe agli assistenti specializzati, che invece non lo è, e questa cosa crea grossissimi problemi all'interno delle scuole quando si trovano assistenti specializzati in gamba che magari tengono botta la didattica ai docenti. Questa che cosa, cos'è l'assistente specializzato? È quello che magari persone laureate con ad esempio un esperto su autismo, nella scuola dove lavoro io c'è un ragazzo espertissimo di autismo, lavora in diverse scuole di Velletri, tiene corsi sull'autismo, è proprio specializzato, lui è un assistente specializzato, ma quello ne sa proprio tanto. Cioè, e lui ad esempio non partecipa ai consigli di classe in cui magari ci sono docenti che proprio non sanno neanche che è l'autismo. Cioè, questo è uno dei tantissimi esempi. Poi l'assistente può essere anche l'assistente per l'autonomia personale, quindi assistenti educativi che aiutano l'alunno nell'autonomia personale, accompagnano quando arriva il genitore, c'è un'assistenza diciamo più fisica. E magari invece, se è un tuo amico, lo invitiamo in trasmissione, lo intervistiamo. Sì, potremmo anche invitare qualche altro assistente specializzato, magari che conosciamo. Sì, vediamo sì. Un po'. Ok, Emiliano, hai qualche domanda per Giovanni? Mi pare che è stato molto chiaro, no? Ok, soddisfatto? Sì, sì. Sempre del nostro carissimo Giovanni che ci ha un po' di tosse. Ringraziamo, dai, già. Fuma un po' di meno. Grazie a Disabili, Emiliano e Michele, grazie a Radio De Foro. Bene, Michele, allora, ridammi il mio, riprendi il tuo. Okay, vai, okay. Ci siamo. Beh, ci ha aiutato pure stavolta. Grande Giovanni. Grande, come sempre, preparatissimo. E va bene. Sta a nostra disposizione. Non lo so, Michele, a questo punto direi che abbiamo un po' dette, ne abbiamo dette pure sì, oggi, sì. No? Vogliamo fare dei saluti finali a qualcuno in particolare, Michele? Saluto tutta Radio De Foot, saluto... Faccioletto in particolare. Che Faccioletto va d'accordo con la trippa. No, saluto tutti i ragazzi di Radio De Foot. Le ragazze soprattutto. Tutti speaker delle trasmissioni. Ufficiali e non ufficiali. Saluto le ragazze di Femministenzia, Whisky Trip. Whisky Trip, sì, hai ragione. Whisky Trip, poi non me ne vengono in mente altro. Quante ne abbiamo di trasmissioni? Ce ne stanno. I ragazzi della mia vita è differente. Senti, Michele, ma vogliamo fare un po' di pubblicità? Questo ti volevo dire. No, la mia vita è differente. Tra l'altro ci hanno invitato pure a noi due. Sì. Praticamente l'8 giugno fanno una bellissima iniziativa. Salta le barriere, mi pare che si intitola. L'8 giugno, che è una domenica. Esatto. Ottimo. Su ai campetti di calcetto di Monte Gentile. Ottimo. Quindi sì, sarà una giornata dove Radio Forte ci sarà. Famosa. È una sorta di Paralimpiadi. Sì. Alla Castellana. Io perché per motivi personali non sono più potuto andare agli allenamenti, però certamente ci andremo, faremo le interviste, faremo tutto quanto e poi lo riporteremo qui a Radio De Foot. Benissimo, Michele. Un bacione da Michele. Allora un saluto e vi lasciamo sempre col grande Max Forestieri, Michele. Vabbè. Ciao. Ok, adesso farò un pezzo di Blind Boy Fuller. Cambio chitarra. Pepper Ball and Extra, ever ready news. Shut that brown and low, got on walking blue. Keep on walking, trying my blues away. I'm so glad trouble don't last away. Used to be my sweet hips, too short of me. Now we've been together like we used to be. Yeah, keep on walking, trying my blues away. Well, I'm so glad tribal don't last away.